cantina nel mezzo del grosso spezzone dell'acqua pubblica, veramente presente in massa questa manifestazione, non solo in questa parte del corteo, anche dietro. Abbiamo visto gli striscioni, le bandiere di praticamente tutte le regioni d'Italia, e siamo qui con il comitato acqua pubblica di Ferrara. Penso che non, in radio non abbiamo mai parlato di questo comitato, non c'è stata occasione, quindi adesso gli chiedo, dimmi, allora adesso chiedo, scusami, avevo parlato con un altro di voi, sono di Radio Onda Rossa. Ciao, volevamo che ci raccontate un po' la storia del vostro comitato, perché credo non abbiamo mai parlato del comitato di Ferrara per l'acqua pubblica, quindi anche poi come siete arrivati a questa manifestazione, insomma, dall'inizio, no? Da... Siamo arrivati a oggi, no? No, voglio dire dall'inizio, quando si è costituito il comitato, sì. Che rispondenza c'è in città, prego. Abbiamo una lunga storia, perché siamo partiti con la raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare, e quindi siamo stati fin dall'inizio a raccogliere le firme, poi piano piano ci siamo mobilitati per il referendum, e lì è stata una grande mobilitazione popolare con tantissime persone e tantissima gente. Dopodiché noi viviamo nella sfera di ERA, la Multi Utility, che ormai è una multinazionale, e quindi abbiamo combattuto strenuamente per tenere aperto il nostro laboratorio acqua, perché noi a Ferrara beviamo l'acqua del Po, che è in condizioni pessime e quindi necessita di una grandissima lavorazione. E questo ha significato una grande battaglia per difendere il laboratorio analisi che avevamo direttamente vicino al fiume. Purtroppo ERA non ha sentito ragioni, nonostante una grande mobilitazione cittadina, non siamo riusciti a tenerlo a Ferrara ed è stato trasferito a Sasso Marconi, cioè centralizzato insieme ad altri. Lì abbiamo avuto un grande aiuto anche dai sindacati, ma la battaglia l'abbiamo comunque persa. Poi non ci... L'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale è da 60 anni di sinistra, cosiddetta oggi PD, e è fortissima alle nostre richieste, anzi è quella che ha portato avanti l'operazione di ERA. Il che significa che noi abbiamo sostanzialmente perso una battaglia, perché abbiamo una grandissima mobilitazione, nella città di Ferrara c'è una maggioranza enorme del PD. Però non demordiamo, e comunque siamo un soggetto molto, come dire, considerato anche, che fa sia dalla cittadinanza, e molto, molto, come dire, che raccoglie consenso, e quindi le nostre battaglie non sono mai sbugiardate, cioè siamo... Senti, ma la qualità dell'acqua, allora, da quello che mi dici sembra che non sia buona, o sbaglio? La qualità dell'acqua non sappiamo più com'è realmente, nel senso che finché non siamo in laboratorio analisi dialogavamo con le persone, col personale. Il direttore dell'acqua del laboratorio era una persona che frequentava il comitato, quindi avevamo una certezza. Da adesso noi non siamo più capaci di mettere le mani realmente sui dati, ci dobbiamo fidare di quello che comunica ERA, e non sappiamo, cioè allo stato attuale abbiamo delle zone in cui è buona, delle zone in cui non è, però è chiaro che se arriva un'emergenza come è accaduto a Ferrara negli anni 80 con la Tragina, noi non sappiamo come verrà gestita, perché i tempi si allungano moltissimo per arrivare a Sasso Marconi, cioè quindi non abbiamo più possibilità di controllo. In questo senso c'è sensibilità sull'acqua, però è anche vero che siamo una città dominata da una forza politica che è molto, molto imponente, e quindi facciamo grande fatica. Sì, volevo chiederti, allora, per riguardo le iniziative di lotta, la campagna nazionale, ecco, nel vostro territorio, in Emilia, insomma nel nord-est, nei prossimi mesi che cosa avete in programma, a quali obiettivi puntate? Beh, in Emilia l'acqua c'è, e questo rende anche un pochino più difficile, perché noi non siamo zone siccitose, così noi abbiamo il grosso problema ambientale, quindi di garantire la qualità dell'acqua, e stiamo lavorando in tutto come coordinamento regionale per cercare di rendere pubbliche quelle SPA che oggi sono al 100% dominate dai comuni. Le vorremmo trasformare in aziende speciali di diritto pubblico, è una campagna che stiamo facendo anche a Ferrara. Di certo stiamo spostando però il tema dell'acqua e delle tariffe molto sul discorso generale, anche a livello nazionale, sul fatto di costituzionalizzare e mettere nella Costituzione il diritto all'acqua, di cercare di far cambiare gli statuti comunali inserendo l'acqua come bene non soggetto alle regole del mercato, e stiamo cercando di portare avanti una campagna a largo raggio sui temi della campagna Stop TTIP, cioè il trattato transatlantico, perché riteniamo che se passa quello le nostre battaglie sui territori diventano inutili sostanzialmente. Grazie. Ecco, no, allora, visto che hai citato questo trattato di cui in radio abbiamo già parlato, però se vuoi spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici cosa significherebbe l'adozione di questo trattato che supera addirittura le costituzioni e tutto quanto per quanto riguarda l'acqua. Sull'acqua significa che praticamente non abbiamo più il diritto di chiedere come si dice, una normativa locale, come stiamo facendo adesso, quindi una ripubblicizzazione locale, di chiedere un diritto nazionale sull'acqua pubblica, perché significherebbe che gli accordi in termini di investimenti vengono fatti dalle multinazionali, e noi sappiamo che le multi utility oggi, che nascevano dalla fusione delle municipalizzate, sono già delle multinazionali che operano all'estero, il che significa che noi perdiamo gli strumenti per agire sulle amministrazioni pubbliche e per riuscire a coinvolgere, diciamo, la cittadinanza in percorsi di partecipazione se passa questo trattato. Questo sull'acqua, così come negli altri settori, perché verrebbero abolite le barriere normative. Grazie, molto chiara. Ciao. No. Benissimo. Ciao. Allora, questa era l'intervista che appunto avevamo preparato. Devo dire che la presenza appunto a questo corteo delle varie sezioni di varie zone d'Italia è generalizzato. Abbiamo visto anche dalla Sicilia c'è un gruppo dei Nomuos fino a tutto il nord-est, la Toscana del Mago Matteo, ovvero la Toscana contro il Mago Matteo Renzi, e il nord-ovest, il centro, la Campania, l'Abruzzo, c'era anche un grosso spezzone dell'Abruzzo in lotta, quindi una risposta veramente su scala nazionale, una manifestazione mi sembra riuscita. Adesso poi ci saranno gli altri interventi, penso, in piazza, e quindi non so se devi da fare qualche domanda, se no per me posso anche chiudere. Bene, qui ci sentiamo, diciamo così, appena cominciano gli interventi in piazza, così magari li riusciamo forse anche ad ascoltarli. Sì, magari chiama anche qualcuno, perché io non posso rimanere a lungo. Va bene, ok. Un saluto a tutti e a tutti. Ciao. Ciao.